Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Homage to the Buddha, the blessed, noble, and fully self-enlightened one. So, I thought this evening just to continue with the problems that we come across in our meditation. Ho pensato questa sera di continuare con i problemi che incontriamo durante le nostre pratiche meditative. And then tomorrow I'd like you to listen to the actual first talk, the talk that the Mahasi himself gave about his meditation technique. E domani mi piacerebbe se voi ascoltaste il primo discorso in assoluto che Mahasi fece riguardo la sua pratica meditativa. And then, the next day, I'll be talking about the bright side of meditation. Poi dopodomani parleremo un po' dell'aspetto un po' più positivo, bello, luminoso della meditazione. What we call the factors of enlightenment. Ciò che vengono denominati fattori di illuminazione. Yeah. I very quickly passed over yesterday the problem with restlessness, so I just want to say a little more about that. Ieri abbiamo appena accennato al problema dell'irrequietezza, quindi oggi vorrei approfondire un pochino questa problematica. Yeah. I said that in terms of how we experience energy in the body, we either feel it coming inward in terms of dullness and lethargy, or we feel it going outward in terms of restlessness. Quindi abbiamo detto che le modalità in cui noi esperiamo l'energia all'interno del nostro corpo può essere o con un movimento verso l'interno, che si manifesta con uno stato di letargia, oppure un movimento verso l'esterno che si manifesta con uno stato di irrequietezza. And this restlessness can either be in the mind or in the body. L'irrequietezza si può manifestare o a livello della mente o a livello del corpo. Or both. O entrambe. And we can say that it's part of the way that we deal with painful situations or discomfort. Possiamo dire che è parte della modalità con cui noi ci relazioniamo con situazioni che sono dolorose o comunque poco confortevoli. Instead of facing up to difficult situations, we tend to move away from them. Invece di confrontarci con situazioni difficili, solitamente tentiamo di allontanarci da queste situazioni. We tend to run away from them. Di darcela a gambe levate. If you take just the problem of, say, loneliness. Supponiamo di considerare, ad esempio, il problema della solitudine. So, loneliness is that feeling of... sorry. It's okay. I thought you were signaling something. yes, just pushing the fly away. Gently. Oh, God. Loneliness is that feeling of being isolated, being unloved, being unwanted. Solitudine si può definire come quella sensazione di essere da soli, non amati, non desiderati. And so often we may phone a friend and tell them we're lonely. E quindi spesso cosa facciamo? Telefoniamo a un amico e gli diciamo che ci sentiamo soli. And so they say, oh well, come out to the cinema with me. E l'amico ci dice: oh, ma facciamo così, andiamo al cinema assieme. And in this way, we're not looking at the feelings of loneliness, at the state of loneliness, we're just finding a way of escaping it. Ma in questo modo, però, non stiamo indagando questa sensazione di solitudine, troviamo una sorta di escamotage, cioè di facile modalità per non confrontarci con la situazione. Is the word for loneliness the same as solitude? It's a bit slippery in Italian. Quindi, solitudine in italiano, bisogna stare attenti, non è stare da soli, ma sentirsi soli. It's more like feeling lonely. Ah, that's it. Okay. Being alone. Both meanings. It has both meanings. Yes. But okay, so it's made clear for the feeling. So it's, yes, it's solitudine negativa. Negative solitude. And this feeling of loneliness, these feelings of not being loved, not being wanted, they still remain within the system. Allora, questa sensazione di essere da soli, di non essere desiderati, permane comunque nel sistema. And when they rise up into consciousness, instead of being, instead of manifesting as loneliness, they manifest as that fidgetiness. Quando inizia a manifestarsi questa situazione emotiva di solitudine, spesso si manifesta non direttamente sotto quella forma, ma come una sorta di irrequietezza. There was a meditator came to me who felt so lonely that they often contemplated suicide. One or more? Just one. Oh, sorry, yes, I'm using it as a symbol, okay. Yeah. C'è stato un meditante, una meditante che tempo mi è venuta a parlare perché si sentiva così sola al punto da di contemplare il suicidio. So I explained to her this way of dealing with it, of allowing it to manifest, of sitting quietly with it, and of just feeling it, experiencing it, and giving it time to exhaust itself. Quindi io l'ho istruita su come relazionarsi con questa situazione, semplicemente sedendosi con questa emozione, percependola nel corpo, dando il tempo di che si manifestasse e che poco alla volta si esaurisse. And then I asked her, I said, what do you think happens when loneliness comes to an end? E poi le ho chiesto, cosa pensi che capita quando la solitudine giunge al suo termine? She said, despair. E le ha detto, arriva la disperazione. I said, no! Oh, no! E io ho detto, no. When all those feelings of being isolated, being unwanted, unloved, when they finally expend themselves, what we discover is solitude. Allora, quando tutto questo complesso di sensazioni, emozioni, di essere isolati, non desiderati, non amati, si finalmente hanno la possibilità di manifestarsi, ciò che si esperisce al termine di questo processo è uno stato di solitudine, ma non di sentirsi soli. Capite in italiano la differenza dei due termini? Sì? Sì? No. Allora, solo verbalmente, non in profondo. In English, solitude means yes, it means that you are perfectly content being on your own. Allora, in inglese il termine solitude sta a indicare una perfetto appagamento nell'essere da soli. Now, in the Buddha's teaching, this seeking solitude is very much in his teachings. Ora, nell'insegnamento del Buddha, il ricercare questo stato di solitudine è parte integrante dell'insegnamento. this term viveka is a very is a one of these things that he says we ought to do. Viveka, questo termine che indica questo aspetto che abbiamo appena esplorato e che andrebbe perseguito. He says we should wander alone like a rhinoceros. Diceva che noi dovremmo muoverci, vagare da soli nel mondo come un rinoceronte. Because the rhinoceros, it seems, you know, just stays by itself. It doesn't go in groups. Perché il rinoceronte di solito se ne sta per i fatti suoi, non va in giro in gruppo. And it's of course a very strong animal. E ovviamente è un animale molto forte. And so when we are content within ourselves, there is great strength in that. Quindi quando c'è questo stato di, definiamola così in italiano, di contentezza in noi stessi, c'è una grossa forza. Often, for instance, we will agree with somebody, even though we know we don't agree with them, because we don't want to lose their friendship and be alone. Ad esempio, spesso noi possiamo fingere di essere d'accordo con una persona, anche se in realtà non siamo per niente d'accordo con quella persona, perché c'è una paura che se manifestiamo questo disaccordo rimarremo da soli. So this sense of loneliness that we have can have effects on our lives which often we're not aware of. Allora, questo senso di solitudine può avere effetti nella nostra vita di cui spesso noi non siamo consapevoli. Solitudine quella negativa. Quella negativa. Sì. So this is the same with those feelings that make us feel very agitated, such as anxiety. La stessa cosa per quelle emozioni, sensazioni che ci fanno sentire molto agitati, come l'ansia. Now, in this section of the five hindrances, the Buddha uses two words, udaccia, cucuccia. Allora, udaccia e cucuccia sono i due termini pali originari che vengono utilizzati dal Buddha in questa enumerazione di questi impedimenti. And udaccia, cucuccia, it makes you feel restless, eh? E già il termine, l'onomatopeico, udaccia, cucuccia, dà un senso di irrequietezza, no? This udaccia is the restlessness that we feel through guilt, shame, and yes, guilt and shame. Dunque, udaccia è quel senso di irrequietezza che noi percepiamo attraverso il senso di colpa e la vergogna. Sometimes you might catch yourself feeling that a guilty feeling fear, for instance, when you suddenly come upon a policeman. Ad esempio, si può sperimentare questo senso di colpa, di paura, quando incontriamo un poliziotto. No? Even me as a monk. Anche io come monaco. So, these figures of authority bring out those feelings which often, again, we're not particularly aware of. Ora, queste figure autoritarie spesso possono far sorgere questi stati emotivi di cui di solito non siamo consapevoli. Now, guilt, shame and remorse are a secondary layer of mental attitudes, mental states, which arise from the three basic attitudes. Da quei tre atteggiamenti, disposizioni fondamentali, nasce un secondo livello di disposizioni che noi possiamo individuare con il senso di colpa, la vergogna, il terzo, rimorso. E il rimorso. Rimorso. These three levels, remember, are greed, hatred and delusion. Allora, i primi tre livelli sono greed, attaccamento, hatred, odio e delusion, illusione. So, from that delusion, remember, of wanting this world to deliver happiness, we relate to it in terms of accumulation and aversion. Ora, da questo stato illusorio in cui noi vogliamo che il mondo ci dia felicità, noi sviluppiamo quelle due modalità fondamentali che sono di attaccamento e allontanamento per lo sgradevole, attaccamento per il gradevole e tenere lontano lo sgradevole. Accumulation? Più un senso di accumulare. Accumulazione. We accumulate because the more we have, the more we feel safe. Allora, un accumulare in senso proprio fisico anche, perché più si possiede, più ci sentiamo al sicuro. Remember that we know deep within us that we live in a very insecure world. Ora, ricordiamoci che al nostro interno noi sappiamo benissimo di vivere in un mondo estremamente insicuro. Tomorrow we may wake up very sick, or we may wake up dead. Who knows? Domani potremmo risvegliarci molto malati o morti, chi lo sa. So we know, something in us knows this. So anything that we can, that makes us feel safe, we gather more of. Allora, una parte di noi lo sa benissimo questo. E qualsiasi cosa che ci dia un senso di maggiore sicurezza, noi tendiamo a volerlo accumulare, a volerne di più. We feel much more safe with a million euros than with just 100. Beh, ci sentiamo molto più sicuro con un milione di euro che soltanto con 100 euro. So there is part of our accumulation which we can say is almost, to use a funny word, it's almost moral. Ora, c'è parte di questo processo di senso di accumulare che potremmo quasi definirlo, anche se il termine è un po' curioso, morale. Even in the monastic life, the Buddha says we have four requisites. Anche nella vita monastica il Buddha enunciò quattro requisiti. Food, clothing, shelter and medicine. Allora, cibo, vestiti, rifugio, un luogo dove essere riparati e le medicine. He does of course say that we should make do with the simplest of things. Ovviamente poi esplica che dovremmo accontentarci delle cose più semplici possibili. We should be happy with what is given in the bowl for food. Dovremmo essere felici di ciò che ci viene offerto nella ciotola per le offerte per quanto riguarda il cibo. We should be happy even with rag robes made out of pieces of cloth. Dovremmo anche essere felici con dei vestiti fatti da stracci. We should be happy even living under a tree, depending on the weather, of course. Dobbiamo essere felici anche vivendo sotto un albero. Beh, questo dipende dal tempo che c'è. And for medicine, we should be happy with fermented cow's urine. E per quanto riguarda l'aspetto delle medicine, dovremmo essere felici di poter utilizzare dell'urina fermentata di vacca. I never tried it. Io non l'ho mai provato. So, there is a certain gathering of goods and of friends and family which we can say is natural to being a human being. Ora, quindi possiamo affermare che c'è una sorta di, appunto, voler raccogliere, come dire, beni materiali, amici, famiglia, che è parte integrale e costituente di essere un essere umano. But then, you know, greed doesn't have a boundary. It doesn't have a boundary. Però sappiamo anche che la cupidigia, l'accumulare, non ha confini. Eventually, it would like to own the universe. In ultima analisi ci piacerebbe poter possedere l'universo. To control it, to be in control. E poterlo controllare, cioè avere il controllo. And there's that point where our acquisitiveness begins to take from others. C'è un punto in cui la nostra modalità acquisitiva di appropriazione inizia a prendere agli altri. And at this point we enter into a wrong ethical relationship with other people and with the earth. E a questo punto noi iniziamo a entrare in una relazione etica non corretta con le altre persone e con il mondo. Mm. And this is when we begin to feel that sense of guilt. E questo è il punto in cui noi iniziamo a percepire questo senso di colpa. Now this guilt is simply the fear of consequences. Ora, questo senso di colpa è semplicemente la paura delle conseguenze possibili. Just as you've taken what was not freely given from somebody else, they may very well do that to you. Così come noi ci siamo appropriati indebitamente di un qualcosa che non era nostro, sappiamo benissimo che la stessa cosa potrebbe accadere a noi. Mm. And now we enter into a world where we see enemies. E quindi noi iniziamo a, come dire, entrare, essere in un mondo in cui vediamo nemici. And this makes us very restless. E questo ci rende molto inquieti. So this fear of consequences is part of the teaching, of course, of the law of karma. Questo fa parte degli insegnamenti che riguardano la legge del karma. So, if in our meditation these guilts come up of things that we've done wrong, either by way of taking what is not freely given or by way of doing harm, then we have to allow them to arise like any other mental state. Quindi se durante le nostre pratiche meditative sorgono queste emozioni di sensi di colpa, sia riguardanti il fatto di esserci appropriati indebitamente di un qualcosa che non era nostro, sia per aver provocato sofferenza a qualcun altro, è necessario lasciare che queste situazioni interiori e emotive si possano manifestare. Mm. These feelings of guilt are also the karmic consequence of these immoral actions. Possono anche essere viste come le conseguenze karmiche di queste azioni immorali che noi abbiamo compiuto, queste emozioni che noi percepiamo. Mm. And remember, you can't do anything about them. E ricordiamoci, non possiamo farci assolutamente nulla. If there is some guilt comes up at the way you treated somebody, of course you can then apologize to them. Ora, se sorge un senso di colpa riguardo alla maniera in cui abbiamo trattato qualcun altro, ovviamente possiamo poi scusarci con quella persona. And that will assuage those feelings of guilt. E in un certo senso questo ammorbidirà questo senso di colpa. But often there's a lot of guilt which, in a sense, belongs to things that we've even forgotten about. Però spesso c'è molto di questo senso di colpa che risale a eventi che noi abbiamo completamente dimenticato. And remember that very strong guilt like that can eventually manifest as paranoia. Ricordiamoci che un senso di colpa molto forte si può manifestare in uno stato paranoico poi. When I say paranoia, I'm not talking here about mental illness. In questo caso non stiamo parlando di una malattia mentale. It's just beginning to feel that, you know, people are against you when actually they're not. Ma semplicemente iniziare ad avere quella sensazione che è come avere tutti contro, mentre in realtà non è così. Mm. So, our meditation, this in the actual sitting, in a practice, when guilt comes up, this is an opportunity to feel, to experience this guilt and to allow it to manifest. Quindi durante la pratica meditativa, se sorge questo stato di senso di colpa, è un'occasione che abbiamo per poterla percepire, sentire, lasciare che si manifesti. Mm. And not to be, you see, when these things come up, we tend to be afraid. Perché vedete, solitamente quando queste cose emergono, solitamente noi ci spaventiamo. Mm. But we have to, as it were, relax and know that the guilt will not kill us. Ma in un certo senso è necessario che noi ci rilassiamo, sapendo che questo senso di colpa non ci ucciderà. Mm. And very slowly it will just fade away. E molto lentamente, semplicemente scomparirà. The more you can open yourself to these things and bear them patiently, the quicker they pass. Più siamo in grado di aprirci a queste situazioni interiori e accoglierle, sopportarle con pazienza, più velocemente si sciolgono, se ne vanno. Now, this is important in the spiritual life because the Buddha says this guilt now becomes a guardian to your future behavior, of your future behavior. Buddha affermava che era importante nella vita spirituale perché questo senso di colpa diventa, si trasforma in una sorta di guardiano, di sentinella per il nostro comportamento futuro. Yes, because every time you think you will do something immoral, you remember, ooh, I don't want that terrible guilt. Perché ogni qualvolta ci troviamo in una situazione in cui possiamo compiere un gesto immorale, allora ci ricordiamo che non vogliamo più sentire quel senso di colpa terribile. In fact, he says that shame and guilt are the guardians of society. Infatti, il Buddha afferma che il senso di colpa e il senso di vergogna sono le sentinelle dei guardiani della società. Mm. If people in society lose a sense of guilt or shame about their actions, then it becomes lawless. Se nell'ambito della società le persone perdessero questo senso di colpa o di vergogna, la comunità, la società diventerebbe un luogo senza legge. Mm. And in fact, we can see this manifesting, I'm thinking mainly of England, in some of our cities with young people who do terrible things but feel no shame or guilt. Questo lo possiamo vedere, io sto pensando in questo momento all'Inghilterra, in alcune delle nostre città in cui popolazione giovane compie atti terribili ma non percepisce assolutamente nessun senso né di vergogna né di colpa rispetto a queste azioni. Only some, eh? Soltanto alcuni. So now, with guilt there arises shame. Allora, con il senso di colpa sorge anche questo senso di vergogna, definiamolo così. Now, shame is simply that feeling you get when you've let yourself down. Allora, è quello stato emotivo che noi esperiamo quando noi tradiamo noi stessi, si direbbe in italiano. Yeah, that's right. So we have an betrayal ourselves. Yeah, that's right. Okay. Yeah. In a sense, when we have an idea of ourselves, for instance, as a good person. Quando ad esempio noi abbiamo un ideale di noi stessi come se fossimo una brava persona. And then we do something and everybody knows, oh, you're not so good. E poi noi facciamo qualcosa ed è come se tutti iniziassero a dirci, ma tu non sei poi così tanto bravo. And then you feel ashamed. E allora poi sentiamo questo senso di vergogna. And embarrassed. E di imbarazzo. And it's a funny thing, but you can often feel more embarrassed and shameful with a simple social gaffe than you can with a truly immoral act. Ed è buffo pensare come ci si può sentire più imbarazzati con una semplice gaffe dal punto di vista sociale che con un reale atto immorale. Mm. Gaffe, same word, eh? Yes. Ho usato gaffe, ma penso si usi anche in italiano, no? The gaffe, yes. Must be, yes, we must have stolen it from Italian. So, there was a wonderful occasion at the court of Queen Elizabeth I of England. C'è stata una meravigliosa occasione per questa cosa alla corte della regina Elisabetta I in Inghilterra. Sir Walter Raleigh, who was a poet and, if I am correct, founded the colony of Virginia in America. Walter Raleigh, che probabilmente era un poeta che, se ci ricordiamo bene, ha fondato la colonia della Virginia negli Stati Uniti. And was obviously a close associate of the Queen. E ovviamente era in relazione piuttosto stretta con la regina. And while once in the full court, he farted. E una volta, nel bel mezzo della corte, si può dire, no? Sì. Lasciò uscire dei gas intestinali. Un bel scoriggio. Scorigione. He stayed away from court for 1 year. Dopo questo accadimento non si fece più vedere alla corte per un anno intero. When he came back, the queen greeted him. Quando ritornò, la regina lo salutò. Welcome, Sir Walter. Bentornato, Sir Walter. We have forgot the fart. Noi ci siamo dimenticati della scorreggia. So these feelings that we have of guilt and shame, they are consequences of unskillful, unwholesome actions. Ora, queste sensazioni, emozioni di senso di colpa, vergogna, sono la conseguenza di azioni non abili, si dice. Now here's here's something that we have to understand more and more clearly, that the emotion is caused by the attitude, not by the action. Directly, it's directly caused by the attitude, not by the action. L'emozione è causata direttamente dall'atteggiamento che c'è, non dall'azione. Questo è un fatto che va capito in maniera molto molto chiara. Sir Walter Raleigh's shame. Allora, la vergogna che provava Sir Walter was caused by his understanding or attitude towards what he did. Era causata dalla sua comprensione, dal suo atteggiamento rispetto a ciò che aveva fatto. Somebody else may have stayed only away for a day. Qualcun altro sarebbe potuto stare lontano dalla corte solo per un giorno. Yeah? So, when these feelings come up of guilt and shame, we do exactly the same as we do with all the other mental thoughts and images. Ora, quando sorgono queste emozioni, questi stati di senso di colpa e vergogna, allora l'atteggiamento è esattamente lo stesso che abbiamo con tutte le altre cose che possono sorgere al nostro interno durante la pratica. We let the thoughts go and we sink into the feeling, feel the feeling, experience the feeling. Lasciamo andare il pensiero ed è come se ci lasciassimo affondare, penetrare dentro la sensazione. La sentiamo, lasciamo che si manifesti pienamente. And this is the same for the third quality of remorse. Questo vale anche per il terzo aspetto, che è il rimorso. So remorse is the healing of guilt and shame. Ora, il rimorso è il processo di guarigione rispetto alla vergogna e al senso di colpa. And as you know, remorse can be such that you can find yourself crying. Il rimorso può essere di varie intensità, possiamo ritrovarci a piangere, ad esempio. So when the crying comes from remorse, one allows the crying to cry. Quando il piangere sorge dal rimorso, allora si permette al pianto di piangere. Eh? You're still feeling it, you're still experiencing it, and you're just allowing this very strong emotion to express itself. Si permette a questa emozione molto forte di esprimersi. It's the same with sadness. La stessa cosa con la tristezza. If an emotion is so strong that it wants to express itself in tears, then one allows that to happen. Se un'emozione è così forte da volersi esprimere attraverso il pianto, allora si permette che questo sia. And if that should happen to you here on this retreat, you see, and you begin to feel embarrassed, then find somewhere quiet. Ora, se questo ci dovesse capitare qui nel ritiro e dovessimo riscoprirci imbarazzati da questa cosa, allora ci troviamo un posticino tranquillo. Sì. Volevo chiedere, dunque, quando il senso di colpa e la vergogna sono dati da un fatto magari del passato, quindi si riesce a riconoscere queste sensazioni che tornano, si riescono magari a osservare. Quando invece sono dati da un condizionamento, cioè magari in famiglia, una persona che non avrebbe nulla di cui vergognarsi e sentirsi in colpa, però per tanti anni si prova questa cosa, poi arrivano queste sensazioni che non si riescono a, nei confronti degli altri, che non si riescono a osservare perché sono irrazionali. Non so se mi sono spiegata. Sì, credo di sì. Perché non c'è un fatto reale, si prova solo questa sensazione e non si sa da che parte osservarla. Sì, okay. Che farci, no? Now, suppose this sense of guilt and shame isn't really traceable back to a single action, but maybe is the byproduct of an environment, a family, education, etc. Yeah. So, how do we handle it? See, no, that's what I'm saying, you see. The attitudes within us have often lost their reason for being there. Their past, they are leftovers of something that happened in the past. Allora, è quello, proprio questo che sto tentando di spiegare, che spesso ciò che noi proviamo nel presente ha perso oramai il suo collegamento con il passato. In inglese chiamano leftovers, che non sono in italiano come si dica, sono degli avanzi, ma che non riusciamo a far risalire a qualcosa di specifico. So, when these feelings come up, you see, that's why we leave all the memories, all the searching in the past for a reason, because it's not material to the actual emotion, the mental state which is arising here and now. Questo è proprio il motivo per cui si lascia perdere qualsiasi tipo di processo all'indietro, di andare a ricercare, perché non ha nulla a che fare con l'emozione che si sta provando qui in questo momento ora. The Buddha gives a very strong image for this. Il Buddha dà un'immagine molto forte per questa cosa. He says, supposing in a battle a man is shot with an arrow. Allora, supponiamo che durante una battaglia una persona venga colpita da una freccia. And his friends go up to take the arrow out and to put healing medicine on the wound. E i suoi amici lo soccorrono per estrarre la freccia e per medicarlo. And he says, no, don't move it, I want to know who fired it, why they fired it, why they're fighting against us, and so on and so. E lui dice, no, non toglietela, io prima voglio sapere, chi me l'ha scagliata, perché stanno combattendo contro noi. Before he knows all that, the poor man would die. Prima di sapere tutte queste robe, sto poveretto muore, no? Yeah. So, from our point of view of purifying the heart, it is just allowing the heart in its raw emotion to express itself to us. Quanto invece riguarda questo processo di guarigione, è proprio un permettere al cuore, nella sua emotività più cruda, di esprimersi. Oh dear, so much to say. Moving on to the problem of doubt. Ora, continuando con il problema del dubbio. In the Buddha's life, there comes this moment of tremendous doubt. Nella vita del Buddha giunge poi un momento in cui c'è un dubbio terribile. It's the point where he has he's been through all the training, and yet his answer has not been found, and he sits under the tree with a determination to either discover the end of suffering or to die. Il momento in cui, dopo aver seguito tutto il training possibile e non aver trovato ancora la risposta, decide con molta determinazione di sedersi sotto quell'albero e di o trovare la soluzione per porre fine alla sofferenza o morire. And as it is put in the way of those days, Mara appeared. E così come veniva posto nel linguaggio di quel tempo, ecco che salta fuori Mara. And Mara said to him, "Who do you think you are to be sitting under that tree looking for the end of suffering?" E Mara gli dice, "Ma chi ti credi di essere per poterti permettere di stare sostenuto sotto quell'albero a ricercare la fine della sofferenza?" What right do you have? Che diritto pensi di avere? This world belongs to me. Questo mondo appartiene a me. Mara, the pleasures and the joys of the world, that's what this is about. Mara riguarda i piaceri, le gioie del mondo, tutte queste cose, no? But the Buddha was strong because of his perfections. Ma il Buddha era piuttosto forte grazie alle sue perfezioni. Especially it is said the perfection of generosity. Specialmente viene affermato quella che riguardava la generosità. And no matter what weapons were thrown at him, they all transformed into flowers and perfumes. E qualsiasi tipo di arma gli venisse gettata contro si trasformava in fiori. E profumi. Fiori e profumi. Yeah. So what does this mean? Che vuol dire? It means that if we sit here with all these negative states, we will eventually see them transform into their opposites. Vuol dire che se noi ce ne stiamo seduti qua con tutti questi stati negativi, infine noi vedremo la loro trasformazione, vedremo che si trasforma in loro posto. Sì. So all selfishness becomes generosity. Allora tutto l'egoismo si trasforma in generosità. All hatred to love. Tutto l'odio in amore. All cruelty to compassion. Tutta la crudeltà in compassione. All negative solitude to positive solitudine. Tutta la solitudine negativa in solitudine positiva. Everything will transform into its opposite. Tutto si trasformerà nel suo opposto. And this is written in the second of the Eightfold Path, right attitude. Questa cosa è enunciata nel secondo del nobile o duplice sentiero sotto la denominazione in italiano, come si può esprimere? Right attitude. La retta atteggiamento, non mi ricordo la traduzione giusta. No, sometimes they translate it as right thoughts, but it's, I don't. A volte è tradotto come retto pensiero, ma but this is not right. Ma non è proprio corretto. No, it's not correct because the examples the Buddha gives are the ones I've just given you. Perché l'esempio che dà il Buddha è quello che vi ho appena riferito. Love to hate to love. Quindi amore in odio, ah no, odio in amore. So doubt is coming from fear. Allora il dubbio sorge dalla paura. It's coming from that position of don't know, don't dare. Viene da quella da quel luogo, da quella posizione di non so, non conosco, non oso. Yeah. Don't dare, you see, it's like you want to go into a dark wood, but you don't know what's there, so you don't go. Cioè, voglio andare in un bosco, una selva oscura, ma non so cosa c'è lì dentro e non ci vado. And, non voglio andarci. Yeah. And of course, in our meditation, what gives us the courage is the fact that we are entering into a very long tradition. Ora, per quanto riguarda la pratica meditativa, ciò che ci dà il coraggio è il fatto che noi stiamo utilizzando una tradizione sapienziale molto antica. If it was just the Buddha, then we might be, you know, who knows, you know? Se fosse solo il Buddha, ma potremmo dire, beh, oddio, non mi c'è mica tanto da fidarsi, no? But because it's a 2,500-year-old tradition, then, and so many people say this is good for you, then you're prepared to take the medicine. Ma siccome è una tradizione di 2,500 anni, fare bene questa roba, allora c'è questa disponibilità a prendere questo medicamento, questa medicina. So when doubt comes up, it can come in three forms in the religious field. Ora, quando sorge il dubbio in ambito di questo campo religioso, si può presentare sotto tre forme principali. So doubt in the Buddha, in the teachings, in the tradition. Dubbio nel Buddha, negli insegnamenti, nella tradizione. Doubt in the teacher, heaven forbid. Dubbi riguardo all'insegnante, no, perché non voglio al cielo che... and of course, mostly doubt in oneself. E naturalmente, soprattutto, dubbi in se stessi. Yeah. Emotions come up and we doubt whether we can deal with them. Allora, sorgono delle emozioni e noi abbiamo seri dubbi sul fatto di poterci relazionare con queste emozioni. Yeah, maybe we'll go mad, who knows? Magari impazziremo, chi lo sa. Everybody else can sit, but not me. Tutti riescono, possono sedersi, io no. I'm special like that. Io sono speciale. So, when these doubts come up, you see, don't listen to the language. Allora, quando sorgono questi dubbi, non ascoltate il linguaggio. Remember, the mind is a liar. Ricordiamoci, la mente è una bugiarda. So go into the feelings of doubt, the fears. E allora, proprio immergiamoci nelle sensazioni del dubbio, nelle paure. And then, when these begin to die away a little, reconvince yourself of the goodness of this particular form of practice. Quando iniziano a perdere potenza, allora riconvinciamo noi stessi della validità di questo percorso. So often we find, especially those of us who are new to this sort of meditation, that it's very powerful. Specialmente le persone che sono nuove in questo tipo di meditazione possono scoprire che è piuttosto potente. Especially if you're the sort of person who actually doesn't feel their emotions very much, but remains very headbound. Specialmente se sei quella sorta di persone che non sente molto le emozioni, ma rimane più di testa. And sometimes that sort of person, when they suddenly get in touch with their emotions, goes into a state of shock and horror. E molto spesso persone di questo tipo, quando entrano in contatto con questo mondo emotivo, hanno una situazione di shock, di orrore. This definitely happened to me. Sicuramente è capitato a me. So once we contact this emotional life and the turbulence down there, then, you know, we have to open up to it and allow it to express itself. Allora, quando si entra finalmente in contatto con questa vita emotiva, queste turbulenze interiori, è necessario far sì, lasciare che si possa manifestare, esprimere. And If we feel that it's a little too much, if we feel that it's overpowering us, then we can very quickly take our attention away from it. E se sentiamo che forse è un po' troppo potente in quel momento, possiamo delicatamente spostare un pochino la nostra presenza. So you can go for a walk, you can even, in this case, in such a case as this, you can even read a book. Si può andare a fare una passeggiata, in casi come questo si può addirittura leggere un libro. But whatever you do, don't run away. Ma qualsiasi cosa si faccia, non scappiamo via. And remember that that you can come and talk to me about it. E ricordatevi che potete venire a parlarne con me di questa cosa. Yeah, there's nothing. Don't think that you're wasting my time or that I'm not interested. Allora, non pensate che sprecate il mio tempo o che io non ne sia interessato a questa cosa. This is my job. È il mio lavoro. And what you will find, especially those of you who are new, is that if you can go through one crisis, then the ones afterwards are not a problem. E quello che si scopre, specialmente se siamo nuovi a questa pratica, è che se si riesce ad attraversare una crisi, quelle successive non sono più un problema. Yeah. It's getting over the first hump, as we say. È come dire riuscire a superare il primo ostacolo. Il primo ostacolo. I can't read my writing. Non riesco a scrivere cosa ho scritto io. Even in the process of spiritual insight, similar emotions arise. They are spiritual emotions as opposed to worldly emotions. Anche nel processo di risveglio spirituale sorgono emozioni che però hanno la caratteristica di essere un po' emozioni spirituali. So, for instance, we may feel afraid and anxious about our work. Ad esempio, possiamo sentirci ansiosi, insicuri riguardo al lavoro, al nostro lavoro. When we begin to investigate this area of the self and the question arises, well, who am I? Allora, quando iniziamo a investigare quest'area del sé, allora sorge questa domanda, ma io chi sono? Often great fear arises. Sorge una grande paura. Because the self is very afraid of losing itself. Perché il sé ha un'enorme paura di perdere se stesso. Up until now, the self has thought of itself as being a human being. Fino ad ora il sé ha creduto di essere un essere umano. With a body and emotions and thoughts. Con corpo, delle emozioni, pensieri. But suddenly these become objects. Ma improvvisamente tutte queste cose diventano degli oggetti. And this can be experienced by the meditator as pretty frightening. Yes. E questo può essere esperito dal meditante come un qualcosa di piuttosto spaventevole, spaventoso. So that sort of emotion is actually, that sort of experience is actually is a spiritual experience. Quindi questo tipo di esperienza, di emozione, è un'emozione spirituale. Because we're discovering who we really are. Perché si sta scoprendo chi si è realmente. So first of all you have to leave home to find your true home. Allora è necessario andarsene da casa per scoprire la propria vera casa. In Christian mysticism, they use these two words. I've forgotten them. Just yes. Nel misticismo cristiano vengono utilizzati questi due termini. Fascinans et tremens. Fascinating and yet fearful. È un qualcosa di affascinante. C'è cioè una fascinazione, il trozzo del latino è affascinante e tremebondo. Non, cioè affascina, interessa, ma allo stesso tempo incute timore. Mm. Yeah, so you are curious, you want to know, and yet you're afraid. Si è curiosi, si vuole conoscere, ma allo stesso tempo si ha paura. Mm. These two are often within our practice. Spesso ritroviamo questi due elementi nella nostra pratica. I think that's enough. It's enough for me. Penso sia sufficiente, beh, almeno per me. So let me encourage you now, because after 2 days we're slowly getting into the rhythm of the course, feeling slightly more at ease with it. Allora lasciatemi incoraggiarvi, perché dopo 2 giorni stiamo un po' entrando nel ritiro, sentendoci un po' più a nostro agio. Mm. So one thing you can do, as it were, is to try, you know, be more centering upon your own self. Quindi ciò che si può fare è di cercare di centrarsi sempre di più sul proprio sé. Mm. So try not to communicate to people by looking at them. Try to close the world around you, as it were. Quindi cerchiamo di non comunicare con altre persone, anche semplicemente guardandole. Cerchiamo di chiudere un po' il mondo intorno a noi. Mm-hmm. And then it becomes more clear the way the mind is behaving. In questo modo diventa più chiaro il modo in cui la mente si comporta. Yeah. So we're trying to stop the input. Noi cerchiamo di ridurre gli input. Eh? Mm. Very good. So if any questions around this or any other Dharma questions come up at any time, you know, put them in this little box, in this little basket. Se ci sono delle domande rispetto a questo discorso o domande dharmiche comunque, potete sempre scriverle e metterle in questo cestino che c'è qua. So let's just sit quietly just for a second. Sediamoci in maniera tranquilla per un secondo.